Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, formazione del basket di Radio 24 al completo. Franco Piantanita in redazione, Fabio Cantadori in regia, coppia vincente, così come lo sono Bologna e Sassari, che in attesa dei posticipi di lusso di domani sera, perché a questo anche dobbiamo abituarci quest'anno, visto le modifiche di calendario e di palinsesto, direi, dell'Eurolega, in attesa di queste sfide sono le due regine della Serie A. E allora, subito i risultati di questa terza giornata, a partire dall'anticipo di ieri con la Sutor Montegranaro che perde in casa contro la Saie 3 Bologna 73-80, e poi oggi il big match di Sassari col Banco di Sardegna che supera 65-64 la Che Bolletta Cantù, Scavolini Banca Marche Pesaro, Umana Reyer Venezia 88-75, Angelico Bella Juve Caserta 82-65, vince Roma sempre più convincente in questa versione low cost, la Cea Roma batte la Trenk Valder Reggio Emilia 77-66 e l'Enel Brindisi supera per 78-69 la Vanoli Cremona. Domani sera, come dicevamo, l'altro big match di giornata, Cimberio Varese Montepaschi Siena, banco di prova difficilissimo per la Siena, reduce dalla trasferta americana ma anche e soprattutto dalla sconfitta in casa in Eurolega contro l'Alba Berlino, e poi Sidiga Savellino e a 7 Emporio Armani Milano, con Milano chiamata a riscattare la prima sconfitta stagionale in campionato, ma forte anche del successo all'esordio in Eurolega. Classifica che vede Bologna e Sassari a quota 6, Cantù, Varese, Siena, Roma e Pesaro a 4, Milano, Venezia, Montegranaro, Caserta, Biella e Brindisi a 2 punti, a 0 restano Reggio Emilia, Cremona ed Avellino. E allora subito i collegamenti, partiamo dal big match di Sassari con Sassari che batte in volata Cantù. Ha seguito per noi la gara Roberto Nardella, che ci aiuta anche poi a vedere un attimo in casa Olimpia in vista della sfida domani ad Avellino. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24, come dicevi giustamente tu da studio, vittoria di Sassari in volata sulla Che Bolletta Cantù, finisce 65-64, finisce con il canestro proprio sulla sirena da parte di Drake Diner, che c'era l'urlo in gola ai tifosi di Cantù, praticamente la Che Bolletta attardata e a inseguire Sassari per tre quarti, 0 su 10 anche per l'assenza di Capitan Mazzarino. Poi però Cantù riesce a ritrovarsi nella quarta frazione, sorpassa sul 63-62 dopo che era stata avanti l'ultima volta sul 4-5 addirittura al secondo minuto del primo quarto. Poi, come detto, arriva appunto il canestro di Diner a risolvere la partita a un secondo da fine, è arrivato il timeout di Neo Sacchetti e poi il canestro appunto dei due gemelli Diner. Una partita positiva per entrambi, 15 punti per Travis, 13 invece per Drake Diner, e come dicevamo sconfitta per Cantù al secondo stop consecutivo, contando anche la sconfitta contro Lubiana all'esordio in Eurolega. Eh sì Roberto, allora questo Cantù, uno sguardo anche a Milano che domani affronta Avellino, altro test importante per l'Olimpia, visto che Avellino ha 0 punti ma è un osso duro soprattutto in casa, anche se mancherà Johnson. Decisamente così, in questo caso mi faccio aiutare dal collega del giorno Sandro Pugliese, anche per una battuta da parte sua sulla sfida tra Avellino e Milano, campo difficile quello degli Irpini. Milano arriva, non dimentichiamocelo, da una vittoria in Eurolega, però dalla sconfitta forse inaspettata contro Bologna la scorsa settimana alla seconda di campionato. È una Milano che almeno in queste prime partite, così come l'anno scorso Sandro, ha forse un po' troppo dato le sue chance di vittoria al tiro da tre punti. Sì, ha fatto così con l'Efes, ha fatto così con Bologna, con Bologna non è andata bene, con l'Efes decisamente, perché le triple realizzate sono state 15. È evidente che ad Avellino, se le ambizioni dell'Olimpia sono quelle di diventare la squadra che può puntare a vincere il campionato, Milano non può sbagliare, e tenendo conto che ad Avellino mancano sia Johnson che Hardy, il campo sì è difficile, ma per Milano deve essere assolutamente una partita da due punti in classifica. Assolutamente d'accordo con Sandro Pugliese, lo salutiamo, ringraziamo anche Roberto Nardella per questo collegamento. Vogliamo subito a Roma da Fabrizio Fabbri. Beh Fabrizio, buonasera, dico sempre più convincente questa Roma low cost, mancano i grandi nomi che, a cui i romani ci avevano abituati nel passato, ma arrivano invece i risultati. Sì, è arrivato un risultato che alla fine è un 77-66 per Roma, che non rende giustizia in realtà a quella che è stata la cavalcata vincente dei capitolini, che hanno toccato anche un più 34, un distacco che chiaramente la dice lunga su come, su quello che è stato l'andamento della partita. Reggio Emilia è stata in partita per i primi 5 minuti, poi Roma ha allungato con grandissima fisicità, molto meglio Taylor, bene Laval, assolutamente sopra le righe la prestazione di Phil Goss, del migliore in campo, Oleg Cic, che sembra allo stato attuale la vera grande scommessa vinta da questa squadra, in una serata in cui Datome non ha tirato benissimo dal campo ma è stato comunque utile, miglior rimbalzista con 8 rimbalzi insieme alla Val e comunque 13 punti segnati. È una Roma delle idee e di meno soldi, considerando tutti i soldi che sono stati spesi negli ultimi anni a Roma per ottenere nulla, mi pare che l'inversione di tendenza possa comunque far sorridere i tifosi e il presidente Toti, anche ricordando che nell'ultimo giorno utile per l'iscrizione Roma a un'ora dalla chiusura della deadline per l'iscrizione era praticamente fuori dal campionato di Serie A. Per quanto riguarda Reggio Emilia, in conferenza stampa Menetti lo ha detto, probabilmente la partita persa con Venezia di due lunghezze ha un po' tolto energia a questa squadra, che ora deve concentrarsi invece sull'importantissima partita che l'attende nel quarto turno contro Biella. Phil Goss invece ha ricordato due punti importantissimi, perché poi lunedì ci sarà il posticipo contro Milano, un derby tra metropoli ma questa volta con due filosofie diverse. A Milano si è speso tanto per vincere, qui a Roma si è speso poco e si cerca di sopravvivere. E beh, direi finora ce la state facendo. Grazie Fabrizio Fabbri, uno sguardo al tabellino di Pesaro Venezia 88-75, spiccano i numeri di un ex romano, Andrea Crosariol, 18 punti in 23 minuti, più 7 rimbalzi, 9 su 9 da 2, percentuale davvero eccellente per Crosariol. Hai visto mai che in riva all'Adriatico questo talento inespresso, direi, del nostro basket non si ritrovi? Poi 13 punti per Cavaliero, 16 per Barbour, mentre per Venezia 11 per Clark e 12 per Ivan Zorowski. Andiamo da Carmelo Prestisimone per Biella Caserta. Carmelo, Caserta che non riesce a ingranare la marcia fuori casa, Biella al primo successo, ben trovato. Sì Dario, ben trovati, esatto, è proprio come dici tu, Biella acquista i suoi primi due punti in classifica, batte agilmente Caserta Lauretana Forum 80-65, piemontesi che governano la gara e non danno mai l'impressione di perdere il controllo della partita. I ragazzi di Cancellieri nel primo periodo mettono subito il muso a 24-16 con un super Robinson, 10 punti solo nel primo quarto. Caserta prova a limitare i danni con Akindele, che per la gara con 21 punti, che lotta sotto canestro davvero come un leone. Pani che però gestiscono male i possessi. Wise, il playmaker americano, è praticamente inoffensivo, così come Jonusas, l'ala lituana pescata, individuata da Caserta nel campionato tedesco. I piemontesi, così, pur non giocando male nel secondo periodo, reggono e mantengono il più 8 all'intervallo lungo. Infatti la volata fino a questa vittoria. Carmelo, resta là perché adesso facciamo una piccola pausa per il traffico, poi ci spieghi cosa è successo a Napoli in Lega 2, perché l'altra domenica abbiamo festeggiato la vittoria su Verona, invece 0-20 a tavolino, fra poco ci spieghi il perché. Palla spicchi. Volatona per questa seconda parte di Palla Spicchi, abbiamo ancora 8 minuti di basket e 30 secondi allora per Carmelo Prestisimone. Allora, com'è che questo Napoli in Lega 2 si è ritrovato dalla vittoria su Verona nella prima giornata almeno 20 a tavolino, Carmelo? Sì, è stato un brutto colpo, Dario, perché la scorsa settimana, domenica scorsa, abbiamo festeggiato la vittoria di Napoli, che è ritornata tra i professionisti, contro Verona 86-69, e poi l'altro giorno è arrivato invece il provvedimento del giudice sportivo della Federbasket, che ha assegnato lo 0-20 a tavolino per Verona per un tesseramento giudicato irregolare del playmaker del nuovo Napoli Basket, Antonello Ricci, che aveva praticamente, che era stato tesserato come giovane e non come professionista. Lui l'anno scorso giocava a Teramo, quindi aveva lo status di professionista a tutti gli effetti, e invece Napoli l'aveva tesserato, l'ha tesserato come giovane. Quindi praticamente c'è stata l'assegnazione della sconfitta a tavolino, sconfitta a tavolino, e niente da fare per i partenopei, nessuna parentela del sottoscritto col play partenopeo. Grazie Carmelo Prestisimone. Allora, dicevamo Lega 2, i risultati: Brescia-Trieste 84-67, Verona-Iesi 67-58, Bologna Capo d'Orlando 86-81, 68-81 tra Imola e Veroli, Scafati Trento 74-72, Ferentino Casale Monferrato 85-90, vittoria fuori casa per i piemontesi, Barcellona Nuovo Napoli Basket 100-97, seconda sconfitta, quindi Forlì Pistoia 57-84. E allora spazio ai nostri commentatori. Stefano Valenti, ben trovato. Beh, questa coppia Sassari Bologna in testa, che effetto ti fa, Stefano? Ciao, buonasera. Beh, è interessante, interessante, perché da una parte Sassari conferma la qualità dello scorso anno, del resto l'idea c'era già quando ha confermato i cugini Dinier, che anche oggi hanno fabbricato passaggio e canestro della vittoria. Mm-hmm. L'unico dubbio che resta su Sassari, credo sia assolutamente lecito, ed è quello di vedere come reggerà il doppio impegno con la Coppa, con l'Eurocup, che andrà a iniziare a breve. Il primato di Bologna è un primato interessante, perché delle tre vittorie Bologna ha vinto due volte in trasferta su campi di squadre tecnicamente inferiori, ma che dovendo lottare per salvarsi ovviamente restano sempre insidiose, e quindi Cremona e Montegranaro. E la terza vittoria è stata quella più eclatante, in casa su Milano. Ora, se si ricorda quello che era successo lo scorso anno, Bologna perse in casa una sola volta, fu la migliore di tutte, e perse in casa proprio con Milano, e quindi già quel gap è stato annullato. In trasferta Bologna vinse, se non sbaglio, vado un po' a mente, le stesse partite che vinse Caserta, che arrivò penultimo. In trasferta Bologna fece molta fatica, e questo un po' inciso in classifica finale. Invece quest'anno l'andazzo, Bologna evidentemente ha già lavorato su quei due punti deboli. Eh sì, l'andazzo sembra proprio cambiato. Carlo Genta, buonasera, ti ritroviamo poi domani. Ciao, Dario. Dalle 14 con tutti convocati, quindi ci avvicinerai ancora di più a questo doppio impegno di Siena e Milano. Ti piace questo Monday Night che parte questa stagione, diciamo, in modo più stabile? Ma è una scelta obbligata dovuta alla spalmatura dell'Eurolega che arriva fino al venerdì, quindi al di là del fatto che vi piaccia o no, è per l'appunto una scelta obbligata, Dario. Sì. Quindi ce la prendiamo così com'è, con un calendario che assomiglia sempre di più a quello dell'NBA. L'Eurolega è il massimo che può spremere alla nostra pallacanestro, e io credo sia giusto che venga dato spazio al basket di massimo livello, e poi viviamo le avventure del nostro campionato, che appunto porta Bologna in testa, che appunto porta la crisi o mini crisi di Cantù, che secondo me ha speso tutto quello che aveva con una squadra appena costruita nella fase di qualificazione all'Eurolega, e adesso è una squadra tutta da decifrare a partire dagli americani, Dario. Eh sì, dobbiamo, lavori ancora in corso. Domani sera intanto c'è questo Varese-Siena che è parecchio stuzzicante. Flavio Tranquillo, direi un bel match, un big match che già qualcosa può dire, anche se siamo all'inizio e con i cantieri ancora aperti. Buonasera Flavio. Buonasera, sì, qualcosa può dire, però è naturale che alla terza giornata di cantieri aperti non dice delle parole definitive, però è naturale che il contesto è interessante. Credo che la cosa più interessante in assoluto sarà vedere se Varese ha la consistenza mentale per giocare questa partita, perché dopo che tutti gli hanno fatto dei meritatissimi complimenti per il precampionato, le vittorie eccetera eccetera, adesso trova una squadra che è più cantiere aperto di lei, è reduce dalla sconfitta con l'Alba, però della durezza mentale ha sempre fatto una bandiera, quindi da questo punto di vista, prima ancora che di quello del risultato, è un bel test per la squadra di Vitucci. Assolutamente d'accordo. Senti, parlavamo, accennavamo all'NBA, prime prove, prime esibizioni di Marco Bellinelli in maglia Bulls, che posto può avere in quel roster, finalmente in una squadra vincente, con una grande occasione, direi quella decisiva per la sua carriera? Sicuramente è una stagione molto importante, non so se è già decisiva, è una stagione particolare perché la squadra è vincente, ma senza Derrick Rose è da vedere, e senza Derrick Rose sicuramente c'è più spazio per Bellinelli. Quando tornerà Derrick Rose, o il vero Derrick Rose in assoluto, ci sarà meno spazio e lì bisognerà vedere come saranno le cose, però la cosa importante è che questa è una squadra con una prospettiva, con delle abitudini, con una certa solidità, cosa che finora le squadre di Marco non avevano avuto. Carlo Genta, ti piacciono Roma e Pesaro low cost? Pesaro già l'anno scorso aveva fatto un super campionato, lo ricordiamo, la semifinale, questa Roma che con pochi spiccioli in tasca ma sembra avere più cuore. Sì, secondo me durano poco, Dario. Non voglio essere cinico, però secondo me sono squadre che possono andar bene per questa prima metà della stagione, poi quando i giochi diventeranno importanti, secondo me pagheranno dazio, però questa è la dimensione della pallacanestro italiana e quindi tant'è, secondo me è giusto prenderle adesso per quello che sono, poi le vedremo, le valuteremo, è chiaro che le protagoniste del campionato saranno altre. Chiusura con Stefano Valenti, doppio impegno quest'anno anche in Europa, come dicevamo, per Sassari, quanto può influire, in che modo, Stefano? Sai, mi sembra che l'ambiente di Sassari stia affrontando l'esperienza con la giusta mentalità, cioè quella comunque di aver ben chiaro che non si vuole che la Coppa incida più di tanto sul campionato, perché poi il vero valore delle squadre in Italia è indiscutibilmente dato da quello che si fa in campionato. Sassari purtroppo ha abituato i suoi tifosi molto bene a raggiungere i playoff, a fare le semifinali. C'è quella spada di Damocle di quel che combina Biella, che all'indomani di una semifinale di campionato e in una stagione che poi la porta in Coppa, l'anno dopo rischiò la retrocessione. Credo che sia questo il caso di Sassari. Credo che Sassari sia molto ben strutturata, gioca una pallacanestro un po' diversa dalle altre, ma la saggezza e la serenità di una Sacchetti sono, da questo punto di vista, una cartina tornasole di quanto si possa lavorare bene in quel contesto. Quindi ripeto, per dare il valore giusto a quello che Sassari potrà fare in Italia bisogna aspettare come smaltirà comunque l'impegno che c'è, che è quello dei viaggi, dello stress e questa... Niente da fare, caduta la linea con Stefano Valenti, ma ragionamento più che chiaro. Palla Spicchi finisce qui, grazie a tutti, ci ritroviamo nel GR Sport.